Anna Kuliscioff, Il monopolio dell'uomo. Testo integrale della conferenza da lei tenuta il 27 aprile 1890 presso il Circolo Filologico Milanese. Il testo edito dalla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. La questione della donna e gli altri problemi. Signore e signori, voglio anzitutto confessarvi che, pensando intorno alle inferiorità della condizione sociale della donna, una domanda mi si affacciò alla mente che mi tenne per un momento perplessa e indecisa. Come mai, mi dissi, isolare la questione della donna da tanti altri problemi sociali che hanno tutti origine dall'ingiustizia, che hanno tutti per base il privilegio di un sesso o di una classe? Potrebbe teoricamente sembrare che, poiché al giorno d'oggi il privilegio di qualsiasi natura, cardine essenziale di tutti gli istituti sociali, dei diritti civili e politici, dei rapporti fra le varie classi e fra l'uomo e la donna, viene discusso, combattuto e perde terreno ovunque, potrebbe sembrare, dicevo, che da ciò venire dovesse anche un po' di giustizia per la donna, la vittima più colpita nei rapporti sociali moderni. Ma l'esperienza di altre e molte donne che si attentarono a deviare dal binario tradizionale della vita femminile in genere e soprattutto l'esperienza mia propria mi insegnarono che se per la soluzione di molteplici e complessi problemi sociali si affaticano molti uomini generosi, pensatori e scienziati, anche delle classi privilegiate, non è così quanto al problema del privilegio dell'uomo di fronte alla donna. Tutti gli uomini, salvo poche eccezioni e di qualunque classe sociale, per un'infinità di ragioni poco lusinghiere per un sesso che passa per forte, considerano come un fenomeno naturale il loro privilegio di sesso e lo difendono con una tenacia meravigliosa, chiamando in aiuto Dio, Chiesa, scienza, etica e le leggi vigenti, che non sono altro che la sanzione legale della prepotenza di una classe e di un sesso dominante. Ed è per questo che, malgrado gli intimi rapporti che corrono fra i vari problemi, mi parve di poter isolare il problema della condizione sociale della donna da tutti gli altri fenomeni morbosi dell'organismo sociale, generati in gran parte da quel dramma terribile della vita che è la lotta per l'esistenza. In questa lotta lunga, continua e faticosa, col progredire e con l'evolvere della società, è germogliato un sentimento che si fa sempre più coscienza. Il sentimento della giustizia sociale, della civile eguaglianza degli esseri umani. Con questo sentimento, che nel proletario spesso purtroppo è ancora incosciente, l'operaio alza la testa e reclama diritti che gli spettano dal suo lavoro. Il contadino, abbrutito dall'ignoranza e dallo stento, non sapendo e non potendo reclamare coscientemente quel che gli spetta, pur sentendo l'ingiustizia, si ribella violentemente per dare un'ultima scossa a tutti i residui feudali che non si reggono più in piedi nei rapporti sociali moderni. Tutti i diseredati, tutti i paria della società cominciano a muoversi, a chiedere anch'essi un po' di luce, di aria e una vita conforme alla dignità umana. Ed è quindi naturalissimo che, giusto nel secolo nostro, si sia accentuato un movimento serio e vasto fra gli ultimi e più numerosi dei paria, che formano mezza umanità, cioè fra le donne. In tutta Europa e in America si costituiscono eserciti di donne che combattono per la loro redenzione e per scuotere il giogo secolare imposto loro dal sesso maschile. E sebbene questa lotta delle donne non sia tanto manifesta, perché per una infinità di ragioni fisiologiche e psichiche non può mai assumere quel carattere di asprezza e di odio che distingue la lotta delle diverse classi sociali, essa non può tuttavia avere altro significato che la tendenza ad abbattere il privilegio dell'uomo e a scrollarne il potere. Ed è perciò che, volendo parlare della condizione sociale della donna, non ho trovato miglior modo per scendere al midollo della questione che mettere in evidenza il monopolio dell'uomo nelle varie sue manifestazioni, nelle attività e nelle funzioni sociali. So che, trattando la questione da questo punto di vista, debbo affrontare maggiori difficoltà perché generalmente chi occupa un gradino inferiore nella scala della convivenza sociale, per rendersi accettabile, non deve mai assalire di fronte i nemici potenti, ma al più domandar loro modestamente qualche piccola concessione a guisa di favore, di buona grazia, difendersi dagli eventuali attacchi e non far mai uso dell'arma spietata della critica. Deve, insomma, modulare la voce in chiave di umiltà, seppur gli preme di farsi ascoltare. Non farò, tuttavia, una requisitoria. Non è una condanna ad ogni costo dell'altro sesso che le donne domandano, esse aspirano anzi ad ottenere la cooperazione cosciente ed attiva degli uomini migliori, di quanti, essendosi emancipati almeno in parte dai sentimenti basati sulla consuetudine, sui pregiudizi e soprattutto sull'egoismo maschile, sono già disposti a riconoscere i giusti motivi che le donne hanno di occupare nella vita un posto degno per averne conquistato il diritto. D'altronde, pur denunciando la tirannide maschile, non mi mancherà l'occasione di dire cose che parranno forse aspre anche per il sesso al quale appartengo, ma appunto mi pare che mi vi autorizzi l'appartenervi io stessa e sentirmi con esso solidale in tutto e per tutto, anche nelle debolezze, le quali poi, al pari delle malattie del corpo, non si tolgono né si scemano senza averle prima coraggiosamente confessate e diagnosticate. Si intende bene che le mie osservazioni non possono avere nulla di assoluto, e se cercano una media delle cose e delle persone al di qua e al di là della quale abbondano le eccezioni che, come è noto, non scuotono punto la regola. Condizioni della donna attraverso la storia. Chi osserva spassionatamente i fenomeni sociali moderni deve riconoscere che la condizione sociale della donna, questo elemento così importante della civiltà, è uno dei fenomeni più tristi in mezzo alle istituzioni moderne. È un residuo di un mondo intellettuale e morale che va scomparendo dovunque. Non è con una breve chiacchierata che potrei indagare le cause di codesto fenomeno, cause molto complesse che richiederebbero lunghi e profondi studi ed interi volumi. Non è neppure con una polemica più o meno brillante sulla inferiorità o superiorità della donna o con l'attribuire al solo egoismo e alla prepotenza maschile la sua soggezione secolare all'altro sesso che si potrebbe spiegare un fatto che dura da che mondo è mondo, e che poté avere le sue necessità biologiche e le sue utilità storiche, come le ha forse avute anche la schiavitù del maschio. Qualunque fosse quindi l'origine dell'inferiorità sociale della donna, origine fisiologica, economica, etica, o fosse puramente un prodotto del prevalere brutale della forza, il fatto sta che ora si tratta di una questione di dominio. Si tratta del privilegio di tutto il sesso maschile. Privilegio e dominio che sono un vero anacronismo in un'epoca in cui la donna ha progredito sotto tutti i rapporti morali e intellettuali. Sebbene oggigiorno l'evoluzione intellettuale e morale della specie umana abbia temperata l'antica schiavitù della donna e l'abbia convertita in una semplice sottomissione dell'uno all'altro sesso, non si può tuttavia non rimanere sorpresi del fatto che mentre col progredire della civiltà e della cultura umana, fin dai tempi degli stoici e del primo cristianesimo, si alzarono voci in favore degli schiavi, la schiava non ha trovato patrocinio, neppure nella migliore delle religioni, qual è la cristiana. Anzi, il cristianesimo, se da un lato con la Madre del Salvatore volle consacrare la dignità della donna, dall'altro lato ha servito a consolidare vieppiù il concetto biblico della donna, cioè della sua creazione dall'uomo e per l'uomo. Direi persino che mai il disprezzo e l'oltraggio alla donna non sono stati così palesi e chiaramente confessati come dai propugnatori del cristianesimo. I detti di San Paolo, di San Giovanni Crisostomo, di Sant'Agostino, di Sant'Ambrogio ed altri, tutti d'accordo a chiamare la donna la porta del demonio, lo provano a sufficienza. E questi concetti, modificati e rifatti poi dalle varie chiese e soprattutto dalla Chiesa cattolica, informano ancora dopo tanti secoli la sostanza delle opinioni che hanno gli uomini e purtroppo anche le donne stesse sulle capacità, sulle attitudini e sui rapporti reciproci dei due sessi. La stessa rivoluzione francese dell'89, che ha demolito tutte le istituzioni basate sul diritto divino, non ha recato che ben poco profitto in concreto alla causa della donna. e nonostante i grandi principi di libertà, fratellanza ed uguaglianza, la volle lasciata al posto di massaia, negandole i diritti civili e politici. Condorcet e Sieyès potevano invocare con tutte le forze la sua emancipazione politica e sociale, ma l'autoritario Robespierre coi giacobini non davano ascolto. E così, per le donne, sono rimaste leggi ed istituzioni che hanno origine dalla forza brutale, consacrate e sanzionate dalla Chiesa e diventate poi anche base dei codici civili vigenti. La causa delle donne, però, ha intanto progredito di molto e gli uomini stessi, per quanto avvinti dall'abitudine, da interessi e sentimenti egoistici, dovettero anch'essi velare, mitigare e trasformare la loro dominazione. Ma non per questo la soggezione della donna è meno crudele che per il passato, anche perché la donna d'oggi non è più quell'essere impersonale, senza individualità e senza cultura che una volta fu. Siamo ben lungi dai tempi che la donna si considerava come un animale domestico, da potersi maltrattare, scacciare o uccidere a capriccio del suo padrone. O quando si discuteva nei concili se la donna avesse un'anima o no. E finalmente il concilio di Mâcon gliela concedeva a piccola maggioranza di voti. O quando il fondatore delle Orsoline a Dijon raccoglieva i dottori in teologia per decidere se non fosse un peccato insegnare alle donne a leggere e scrivere. Oramai, quasi in tutta Europa e meglio ancora in America, non vi è ramo dell'industria nel quale le donne non prendano parte. Le loro scuole elementari e professionali diventano sempre più numerose, non è loro negato l'accesso all'istruzione superiore, non si vietano loro i titoli necessari ad esercitare tutte le professioni che finora furono e sono tuttavia il monopolio dell'uomo. Neppure in Italia, che eccettuate la Turchia e la Spagna e dei paesi d'Europa, quello dove la lotta per i diritti della donna è rimasta più in embrione, neppure qui l'istruzione della donna trova ora quelle opposizioni decise che non oltre una decina di anni fa formavano ancora uno scoglio quasi insuperabile. Quale donna studiosa in Italia non sa gli sforzi tenaci e coraggiosi di alcune elette di animo e di intelligenza come la Poggiolini, l'Anna Maria Mozzoni, la Laura Mantegazza, la Beccari ed altre alle quali le donne italiane debbono il diritto acquistato di percorrere studi superiori e professionali? Sembrerebbe quindi che una volta la donna ha conquistato tutti i requisiti necessari ad esercitare certe professioni, certe arti e mestieri, non vi avrebbe ad essere alcuna sufficiente ragione di negargliene poi, direttamente o indirettamente, l'esercizio, oppure di ammettervela solo in condizioni molto inferiori a quelle dell'uomo. Eppure, per quanto ciò sia assurdo ed ingiusto, vi è una desolante contraddizione fra la logica e la realtà delle cose. La donna nella lotta per l'esistenza. Il monopolio dell'uomo è troppo vasto per poterne trattare tutte le manifestazioni, in famiglia, nei diritti civili e politici e nel campo della lotta per l'esistenza, sia materiale sia intellettuale. Mi limiterò principalmente al monopolio dell'uomo nel campo della lotta per l'esistenza, dove la donna ha sempre avuto una parte notevole, ma sempre anche subordinata a quella dell'uomo. Né poteva essere diversamente, quando l'arma più efficace per procurarsi i mezzi di sussistenza stava nella forza muscolare, che nella donna è relativamente più debole. E quando il maschio, guidato dall'istinto sessuale, conquistava la femmina stessa con la forza brutale del fisicamente più forte. Si potrebbe dire con Le Tourneau che il primo animale domestico dell'uomo è stata la donna. Perché in condizioni dispari di lotta, ella rimaneva la vinta, ma vinta soltanto dalla forza brutale. Invero, nella divisione del lavoro per la conservazione della specie, animata da quella potente forza che è il sentimento della maternità, la donna, anche nelle società primitive, si palesa attiva e capace di invenzioni industriose e, come dice giustamente il professor Vignoli nel suo notevole studio sulla psicologia sessuale, nelle primitive condizioni umane, la protezione e le cure per i neonati rendono la mente della madre alacre e sveglia e la spronano ad escogitare industrie nuove, industrie che nella prima età umana sono tutte scoperte. La donna nei popoli primitivi. La donna, quindi, Esercitava in tal modo lavori equivalenti a quelli dell'uomo, anzi, lavori non solo equivalenti, ma ben più faticosi e molteplici. Chiunque abbia letto libri di viaggiatori o missionari sui popoli primitivi nell'Africa, nell'Australia o nelle isole abitate ancora da selvaggi, sarà probabilmente rimasto addirittura atterrito dalla sorte terribile che tocca alle donne. Se per l'uomo le occupazioni principali sono la caccia e la guerra, che del resto non sono continue, la donna invece deve continuamente attendere ai lavori più duri. Il capitano Bove, nel suo viaggio nella Terra del Fuoco, dopo aver narrato con quali fatiche i fuegini si procurano uno scarso nutrimento, dice: di questa lotta la più gran parte spetta alla donna. Ad essa i più penosi lavori, la pesca, la condotta delle canoe, la conservazione del fuoco. Quante volte ho veduto gli uomini tranquillamente seduti intorno a un buon focolare, mentre le povere donne stavano esposte alla neve, al vento, all'acqua, pescando per gli oziosi loro mariti. I giovani australiani dicono ingenuamente che prendono moglie per farsi procurare legna, acqua, alimenti e farsi portare il bagaglio durante le trasmigrazioni della vita nomade. E in tutte le fasi che percorse lo sviluppo umano, la donna ebbe quella sorte particolare di essere considerata dall'uomo come uno strumento di lavoro. Se gettiamo uno sguardo rapido nella famiglia patriarcale, la donna cura i bambini, il bestiame, prepara gli abiti, costruisce le capanne e quando cominciò la coltivazione della terra, il primo animale attaccato all'aratro fu la donna. Per queste utilità che presentava come forza di lavoro e non soltanto per istinto sessuale, anche nei periodi primitivi dell'evoluzione umana, l'uomo sentiva la necessità di conquistare la donna, dapprima con la forza, onde il matrimonio per ratto, di cui rimane ancora la tradizione simbolica nei costumi nuziali di tanti popoli, indi con prestazioni di lavoro e col servaggio. Così Giacobbe, secondo la Bibbia, servì 7 anni per ottenere Rachele, ma il padre di questa, furbo, gli diede invece la sorella Lia per costringerlo, se voleva Rachele, al lavoro per altri 7 anni. Al matrimonio per conquista succede il matrimonio per compravendita. Il fidanzato pagava un tanto ed erano quasi sempre giovenche ai proprietari della sposa, cioè ai genitori, indi alla sposa medesima. Chissà se i regali che i fidanzati usano ancora oggi fare alle loro promesse non traggono origine di là e se non hanno più il carattere di una vera compera. Tuttavia, quanti uomini non sanno trovare mezzo più efficace per conquistarsi il cuore di una ragazza del regalarle un anello, un braccialetto, una catena o qualche altro ninnolo lusingatore della vanità femminile? È vero però che oggi, fattisi i tempi più civili, non avviene tanto che l'uomo comperi la moglie quanto il suo contrario, che cioè sia la donna che deve comperarsi un marito, e le ragazze senza dote ne sanno qualcosa. La donna nel Medioevo. La triste vita della schiava in Grecia e in Roma è troppo nota perché io la rammenti. Ma venuto il Medioevo, sembrerebbe che sotto l'influenza del cristianesimo, di questa religione tutta pietà e amore per il prossimo, la sorte della donna dovesse migliorare, poiché il prossimo più vicino dell'uomo mi pare sempre stata la donna. Eppure, passatemi l'eresia, fu appunto il cristianesimo che sanzionò e per così dire consacrò quella soggezione della donna che da prima non aveva altro fondamento che il predominio del fisicamente più forte. L'ascetismo cristiano fece considerare la donna a quegli uomini assetati di paradiso come una tentazione di peccato, un pericolo di perdizione, insomma, l'ho già detto, come la porta dell'inferno. Così, agli obblighi già gravi di un lavoro del quale le massaie moderne non hanno pure una lontana idea, poiché la donna del Medioevo doveva filare, tessere, imbiancare la tela, confezionare abiti e biancheria, preparare sapone, candele, attendere al campo, all'orto, alla stalla, a tutti, insomma, i lavori che quella civiltà esigeva si compissero nelle mura domestiche e dai quali rifuggivano disdegnosi gli uomini guerrieri, si aggiunse il cosciente disprezzo di cui era fatta segno in nome di una fede proclamata umanitaria e redentrice. Ne ci parlino i sentimentali romantici della poesia del Medioevo, dei suoi trovatori, delle castellane, delle creazioni poetiche che innalzarono la donna al settimo cielo, ma quelle creazioni poetiche erano forse donne davvero? Le Beatrici, le Lauree, le Leonore non furono che allucinazioni create dal vago intuito dei grandi poeti, che sentivano l'uomo un mezzo essere se non è completato dalla donna. E poi che l'eterno femminino reale era disprezzato ed oltraggiato, la fantasia ascetica doveva pur foggiarlo in una forma eterea di donna bionda, linfatica, vicina agli angeli e possibilmente lontanissima dal poeta. Queste creazioni poetiche, più che lusingare l'amor proprio femminile, sono atte a rattristare l'animo, pensando che gli uomini d'ingegno, per trovare uno sfogo alla loro espansione affettiva, dovevano collocare la donna immaginaria nel cielo o nelle visioni allucinatorie. E non poteva essere diversamente, data la condizione reale della donna in quei tempi, nei quali i precetti di una religione, allora in tutto il suo vigore, le prescrivevano norma suprema, l'ubbidire e il soffrire in silenzio. La donna moderna. Così tutta la storia dello sviluppo dell'eterno femminino, sin dall'età primitiva, si presenta agli occhi nostri come un lungo martirologio. Il diritto del fisicamente più forte, principio informatore degli organismi sociali sviluppatisi dalla cellula embrionale delle società primitive, fa della donna la eguale del vinto. Animale domestico prima, poi schiava, poi serva, poi semplicemente soggetta. Ed è anche perciò che in molte famiglie la nascita di una femmina è considerata quasi una sventura. Oggi ancora fra i bretoni in Francia i contadini nel loro linguaggio immaginoso e rustico, quando la donna partorisce una bimba, usano dire che la fè une fausse couche, una falsa gravidanza. Ed è così generale questo sentimento che lo si ritrova, rivestito persino di identica espressione nei luoghi più diversi e lontani. Anche in certe plaghe della Russia usano la stessa frase, dicono che la donna ha abortito. Con l'evoluzione però delle civiltà moderne, l'elemento della forza muscolare andò sempre più eliminandosi in moltissime attività sociali, nelle produzioni industriali e persino nell'agricoltura. Così che la donna, nelle classi sociali che si guadagnano la vita col lavoro, si è trovata poco a poco in condizioni su per giù uguali a quelle dell'uomo. Ed è soprattutto nel secolo nostro che la donna, per leggi di economia politica, che qui non è né il momento né il luogo di prendere in considerazione, collaborando direttamente nella produzione delle ricchezze sociali, ha potuto diventare consapevole della sua equivalenza all'uomo.